lo conosco io, mamma mia. C'è presente un leone, peggio, un vabbè, ho messo sbagliato, un cavallo. Ho capito, un leone. Vabbè, tanto, riprendiamo.